9 in punto. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di Cina, ma non possiamo non dedicare i primi due minuti di questo programma, che è un classico di Radio 24 fin dalla sua fondazione, a Francesco Cossiga. Francesco Cossiga, che è morto ieri e che è stato molto spesso, soprattutto negli anni in cui a condurre 9 in punto, viva voce a quel tempo, era Giancarlo Santalmassi, che è stato poi anche direttore di Radio 24 e che peraltro lo ha ricordato, lo avete sentito qualcuno di voi nel GR delle 8. Francesco Cossiga era molto attento, seguiva molto Radio 24, seguiva, come ha raccontato anche Pagliarini poco fa, tutte le innovazioni tecnologiche, tutto quello che poteva tenerlo in contatto con il mondo esterno. Era grande, un grande personaggio, ma grande attento, una grande attenzione da parte sua a tutto quello che avveniva sul fronte politico, ovviamente, ma anche sul fronte delle relazioni personali. Era una persona molto aperta, anche se in qualche modo introversa, in qualche modo alla ricerca continua di una posizione nuova, ma molto anticonformista. Il suo essere picconatore, come un po' tutti i giornali lo definiscono oggi, era un'avversione al politicamente corretto, un politicamente corretto molto spesso ipocrita, molto spesso che nasconde la realtà delle cose. Ecco, Cossiga aveva, soprattutto negli ultimi decenni, possiamo dire, della sua vita politica sempre intensa, la voglia di appunto abbattere i luoghi comuni, di andare oltre, di andare alla realtà delle cose, con un grande senso dello Stato, una grande difesa delle istituzioni, una grande difesa appunto della capacità del Paese di essere solidale, di essere unito, la ricerca appunto di una unità di fondo, unità di valori che era anche nel suo essere profondamente cattolico, profondamente democristiano, fedele a questo essere democristiano, tanto che quando con un senso appunto della sconfitta, del fallimento, si ricordano anche le sue dimissioni soprattutto quelle da ministro dell'interno dopo l'assassinio di Aldo Moro, suo grande amico. Quindi apriamo questa trasmissione ricordando Francesco Cossiga, ma parlando adesso, subito, immediatamente, di attualità, dei fatti di oggi, dei fatti che questo mondo globale ci portano alla ribalta. E uno dei temi di fondo di queste giornate è la Cina che è tornata in primo piano, per il dato peraltro atteso e peraltro che non è una grande notizia, di superamento del PIL, del prodotto interno lordo cinese, di quello giapponese. Il Giappone è da anni un'economia ferma, è un'economia peraltro che si basa su 120-125 milioni di persone. La Cina è un'economia in grande fermento, in grande crescita, 1.300.000 persone, due grandezze difficilmente comparabili dal punto di vista appunto della struttura sociale, della struttura economica, e quindi questo superamento del PIL è più una cosa simbolica che non un segno effettivo di forza. Però la forza dell'economia cinese è data dalla sua capacità di crescita, anche se molti hanno ricordato giustamente che il PIL, il prodotto interno lordo pro capite cinese, è ancora molto, ma molto più basso di quello di tutti i paesi occidentali. Quindi il cammino che può compiere, che compirà la Cina è ancora molto lungo, e questo è un rischio da una parte, un'opportunità grande di un'apertura di un mercato dall'altra. La Cina si è presentata al mondo ormai in un'apertura totale della sua economia, con l'Expo di Shanghai, che si è aperto i primi di maggio, si chiuderà a fine ottobre, è un po' al giro di boa. Nei giorni scorsi all'Expo di Shanghai c'è stato Aldo Bonomi. Buongiorno Bonomi. Buongiorno a voi. Aldo Bonomi, sociologo, direttore di Aster, un attento osservatore della realtà italiana, e ha scritto ieri su Sole 24 Ore un piccolo diario di questa visita all'Expo di Shanghai. In sintesi, Bonomi, qual è l'impressione che emerge da un italiano che è abituato a viaggiare in questa realtà di piccole e medie imprese, in questa realtà che hai descritto molto spesso, in questa città infinita ma in fondo piccola della pianura padana, della via Adriatica, delle difficoltà del sud, da questa realtà italiana a Shanghai? Qual è l'emozione più forte che ne hai richiamato? Direttore, mi permetta una battuta partendo dall'apertura della trasmissione, credo che il presidente Cossiga avrebbe molto amato una riflessione geopolitica che la Cina induce. Detto questo, le impressioni che io ho avuto partendo dai miei microcosmi, partendo dal territorio dell'Italia, andare in un macrocosmo come quello cinese, come l'Expo di Shanghai, sono semplicemente tre o quattro. La prima è che l'Expo dimostra che siamo tutti lì a rendere omaggio a una nuova potenza nascente, che ovviamente il dato del superamento del Giappone e di diventare la seconda economia del mondo sta lì a dimostrarlo, però lo dimostra ancora di più questo Expo, che nei fatti tutti quanti siamo andati a rendere omaggio al nuovo mercato, a una dimensione di economia e del mondo che viene avanti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che si capisce andando all'Expo, almeno che io ho capito, è che non è vero che siamo nel secolo del post ideologico, c'è una nuova ideologia che viene avanti, basta visitare il padiglione cinese, lo si capisce, un'ideologia che mette assieme economia e stili di vita, l'economia, il motore dell'economia come motore principale, questo grande racconto che i cinesi fanno di se stessi al mondo, rappresentato da ponti, strade, grattacieli, automobili, industrialismo che viene avanti, cioè quindi questa nuova fase dell'economia che viene da est, e partendo da lì ovviamente gli stili di vita anche della Cina che cambia rispetto a questo. E la cosa che colpisce è che le radici di questa nuova ideologia, dal mio punto di vista, è come se venissero trovate sul territorio, nella dimensione in cui c'è questa celebrazione del confucianesimo come ideologia di fondo che tiene, di coesione sociale, questa ideologia in cui si dice la famiglia, tutti messi al lavoro. In questo mi ricorda molto i tratti di alcune dimensioni territoriali italiane, come cultura di fondo, come capacità di mettersi al lavoro e di affrontare i grandi cambiamenti. Terza cosa che si è capita è che questo industrialismo si pone il problema della compatibilità ambientale per la prima volta, e quindi in questo, se si visita l'Expo di Shanghai, la cosa che si capisce è che la parola d'ordine per uscire dalla crisi di tutti, dalla crisi che attanaglia soprattutto le economie di più antica formazione o le economie che hanno attraversato la crisi finanziaria in cui siamo in parte ancora dentro, hanno come punto di riferimento la green economy, e quindi tutti quanti si dice che questa rappresentazione che il capitalismo dà di sé, dice tranquilli, ce la faremo. Ovviamente questa cosa qui è un indice di speranza che tutti quanti possono anche accettare, ovviamente criticamente ti viene da chiedere se ce la si farà, pur in una turbolenza delle borse che continuano, dell'economia globale che non è ancora assestata. Non dimentichiamoci che l'Expo di Shanghai è stata ed è l'ultima Expo che celebra la potenza dell'economia della tecnica del Novecento che arriva nel nuovo secolo, ma nello stesso tempo l'Expo di Shanghai è la prima Expo celebrata dentro la prima crisi della globalizzazione, con tutto ciò che questo certo, vuol dire. Con tanti certo. problemi aperti appunto che vengono alla ribalta in questa fase, in una fase in cui la Cina si presenta in tutta la sua grande capacità, la capacità anche di presentare i problemi, il problema ambientale indubbiamente è ai primi posti, e anche della capacità, della fiducia che dobbiamo avere nel prevedere delle soluzioni per questi problemi. Io vorrei far intervenire subito Vincenzo Boccia. Buongiorno Boccia. Buongiorno a lei. Vincenzo Boccia è presidente della piccola industria di Confindustria. Ovviamente il modello italiano, il modello di piccole e medie imprese, si trova di fronte a questo colosso cinese con tutte le sue potenzialità. Qual è l'impressione, qual è l'emozione di fondo che ha il ragionare sul fatto di doversi confrontare con la Cina? Vincenzo Boccia. Beh, due considerazioni. considerazioni che vengono anche da una missione di sistema che abbiamo fatto prima dell'estate come Confindustria proprio in Cina e a Shanghai. La prima è che la Cina si è trasformata di fatto da un luogo in cui produrre per poi inviare merci nel mondo ad un mercato, perché l'innalzamento anche dei salari in Cina sono una evidenza che i cinesi cominciano ad attrarre anche beni da altri paesi. E qui diciamo noi italiani possiamo e dobbiamo giocare una grande partita, in particolare per quei prodotti di alta gamma, dalle macchine di lusso al tessile, abbigliamento e altri settori. Sicuramente possiamo avere, come dire, uno spazio importante. Tra l'altro è evidente che c'è una crescita, possiamo e dobbiamo fare di più. L'altro elemento è la capacità di attrazione di investimenti da parte dei cinesi e direi anche la concorrenza tra i vari governatori delle municipalità, che si fanno concorrenza a suon di politica fiscale, che è un elemento che deve farci riflettere molto. Il terzo è un rischio di medio-lungo termine, perché la Cina già oggi comincia a individuare una politica economica che è totalmente diversa da quella che abbiamo concepito fino a qualche mese fa. Ossia la Cina cerca di orientarsi su attrazioni di investimenti cosiddetti capital intensive, che è esattamente l'antitesi di quello che è stata la Cina fino a ieri, cioè attrazione di investimenti, lavorazioni cosiddette labor intensive. Questa seconda questione, che è una questione più di medio periodo, è una questione che ci vede, diciamo, come paese che deve reagire, e cioè quale direzione l'industria italiana, la politica economica italiana deve avere per controbattere a una visione cinese che è quella di attrazione del capitale intensivo. I cinesi stanno acquisendo anche aziende in Occidente che sono forti nel capital intensive ed è evidente che questa partita si giocherà molto su questo fronte. Secondo noi l'Italia deve, come dire, orientarsi in particolare verso quella dimensione di media impresa con una grande attenzione per il manifatturiero, e più che puntare su alcuni settori bisognerebbe puntare su aziende innovative, perché ci sono aziende innovative in tutti i settori. E questa partita noi la vinceremo come paese nelle sue diversificazioni anche territoriali e manifatturiere se riusciremo a stimolare questo percorso con aziende veloci e direi migliori. Ecco, l'innovazione è una grande partita, mi dica, scusi. No, prego, scusi lei, l'innovazione è certamente un punto fondamentale, così come quanto lei sottolineava sulla qualità. Io devo ricordare il numero verde per le nostre telefonate degli ascoltatori, l'800 24 00 24, e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Ma dottor Boccia, l'impressione che si ricava a Shanghai è comunque quella di una competizione aperta, di una competizione che si può e si deve affrontare, che poi le vittorie arrivano poi di volta in volta, ma l'importante è affrontare la competizione, quindi si può affrontare la competizione anche con il colosso cinese. Ma direi di sì, è nell'animo degli imprenditori italiani e delle imprese italiane, quando diciamo ottimisti nelle aspettative e pessimisti nelle previsioni. È una sfida, diciamo, eccitante in un mondo che sta cambiando. Dobbiamo accettare come paese le regole della globalizzazione che corrispondono a dei vincoli ma anche a delle grandi opportunità. Il mercato mondiale si è allargato e questo mercato mondiale ha bisogno di tanti prodotti italiani, dove il Made in Italy dovrebbe essere capitalizzato e non frazionato in tanti progetti regionali, tra le altre cose, che invece non vengono percepiti come tali all'estero. Abbiamo da capitalizzare una storia del paese che ci permette di entrare a tutto campo in questa grande partita, in un paese, ricordiamolo, che è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Questo aspetto non dobbiamo perderlo, anzi dobbiamo rafforzarlo. Ecco, è un aspetto che a Shanghai è presente con un padiglione italiano che appunto, come racconta peraltro Bonomi nel suo articolo di ieri su Sole 24 Ore, rappresenta un po' la complessità, la varietà della realtà italiana da un punto di vista artistico, naturale, ma anche produttivo. Abbiamo in linea anche Beniamino Quintieri. Buongiorno dottor Quintieri. Buongiorno a lei. Commissario generale del governo per l'esposizione universale di Shanghai 2010, quindi il protagonista di questa presenza italiana a Shanghai. A metà del cammino dell'Expo di Shanghai, quale bilancio si può trarre della presenza italiana? Dottor Quintieri. Ma non spetta a me dirlo, ma il bilancio è estremamente positivo e certamente superiore anche a quello, alle migliori previsioni che avremmo potuto fare prima della partenza. Stiamo avendo un grande successo sia in termini di numero di visitatori, ma soprattutto tra i media cinesi, che prestano grande attenzione al nostro padiglione e fanno sì che la curiosità dei cinesi sia crescendo. E soprattutto quello che stiamo notando, ci hanno detto molte importanti personalità cinesi che hanno visitato il nostro padiglione, che dopo questa visita è cambiata la loro percezione dell'Italia, nel senso che è vero che abbiamo dato spazio alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, ma abbiamo messo anche in evidenza come l'Italia, come diceva Boccia prima, è il secondo paese manifatturiero al mondo e quindi può dire qualcosa anche in campo tecnologico. Ecco, in questa prospettiva la percezione appunto è che l'Italia possa diventare un elemento di attrazione anche da un profilo indubbiamente di prodotti, di immagine di prodotti, ma anche da un profilo turistico, per esempio. Assolutamente sì, è una degli aspetti che abbiamo cercato di approfondire. Devo dire che fra l'altro, oltre la mostra permanente che caratterizza la presenza di ogni paese all'Expo, abbiamo dato vita a un fittissimo programma di eventi, di seminari, di mostre aggiuntive, proprio per ragionare sui due livelli. Uno è quello del visitatore generico, parliamo di visite che ha una media di 40.000 visitatori al giorno nel nostro padiglione, e l'altro target è quello invece di un pubblico più specialistico, i buyers, i tour operator e quant'altro, quindi con seminari, workshop, in cui abbiamo coinvolto le associazioni di categoria, il territorio e via dicendo. Quindi l'aspetto turistico è certamente un aspetto importante, considerando che le previsioni degli esperti indicano che nei prossimi anni la domanda di turismo vedrà un impulso proprio a causa della forte espansione del turismo in Cina. Ecco, in questa cinesi più che altro verso l'estero. Ecco, in questa prospettiva volevo chiedere proprio, dottor Quintieri, come è possibile giudicare adesso la Cina. Si parla spesso di un paese in transizione, in cui un paese che ha un sistema comunista politico, ma ha un sistema capitalista a livello economico, che è in parte chiuso e in parte aperto, un paese certamente complesso. Possiamo dire che è un paese comunque aperto e che si aprirà sempre di più, almeno dalla sua prospettiva? Io penso di sì. Ricordiamo che lo sviluppo cinese, contrariamente a quanto è avvenuto per alcuni paesi che si sono sviluppati, il Giappone compreso, è partito grazie a un grado di apertura molto elevato sin dall'inizio. Molti paesi invece hanno seguito dei tragitti più prudenti. La Cina ha un grado di apertura elevatissimo, ha un alto livello di esportazioni, come sappiamo, ma è anche un grande paese importatore. Io penso che non ci sia la volontà di proseguire su questa strada, anche perché, come si ricordava prima, non solo la Cina esporta molto, ma sta attuando un programma di investimenti all'estero e allo stesso tempo è il primo, secondo paese quanto a capacità di attrazione di investimenti. Quindi c'è in atto da anni, e credo continuerà, un processo non solo di integrazione commerciale ma anche di integrazione produttiva. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di Cina, di prospettive dell'economia cinese, ma quindi anche dell'economia globale, con Aldo Bonomi, sociologo, Vincenzo Boccia, presidente della piccola industria di Confindustria, Beniamino Quintieri, commissario del governo per l'esposizione di Shanghai 2010, che è in atto in questi mesi. Aldo Bonomi, allora, facendo un po' il punto e guardando un po' in avanti, che cosa possono fare le imprese italiane? Beh, in primo luogo direi che va bene quello che abbiamo fatto all'Expo di Shanghai, nel senso che ci sono due paesi che si sono rappresentati con il MADE e sono giustamente i due paesi che citava prima Boccia, i due paesi maggiormente esportatori e produttori manufatturieri in Europa, che sono la Germania e l'Italia. il padiglione tedesco e il padiglione italiano sono pieni di cose che si producono, ovviamente ognuno ha le sue. Noi abbiamo rappresentato l'Italia anche delle scarpe, anche della moda, anche del salone del mobile, che è parte del nostro Made in Italy, delle nostre piccole e medie imprese. I tedeschi si sono rappresentati con un di più di potenza e siamo andati a confrontarci con l'altro paese del Made in China, che è la Cina. Quindi in primo luogo l'Expo ci dice che avverrà un confronto nei prossimi anni sul piano della produzione manifatturiera e industriale tra una dimensione dentro una dimensione globale. E sono totalmente d'accordo con Boccia che questo è anche un messaggio per le nostre imprese, che va benissimo la rappresentazione che abbiamo dato all'Expo di Shanghai, ma bisogna tenere presente che questa non basta nei tempi che verranno. Ecco, io vorrei proprio su questo far intervenire Vincenzo Boccia, perché proprio una delle critiche che si fa al sistema italiano di essere basato su settori tradizionali, tessile, immobile, l'abbigliamento, i settori appunto in un certo senso un po' vecchi, ma è possibile fare innovazione, fare qualità basandosi proprio su questi settori? Dottor Boccia, mi dicono che è caduta la linea con Boccia, allora avevo un'altra considerazione Bonomi, poi adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento con il Presidente della piccola industria. Bonomi. Sì, secondo punto è che visitando l'Expo di Shanghai si capisce che sotto traccia c'è una grande questione che dentro la globalizzazione dovremo affrontare nei prossimi anni, ed è il concetto del limite. Non dimentichiamoci che l'Expo di Shanghai aveva come tema Better City, Better Life, cioè vivere una dimensione metropolitana, una dimensione delle città con la qualità della vita, e dentro questa qualità della vita conta molto quell'economia che viene avanti, che è l'economia di manutenzione, o se volete l'economia che incorpora al suo interno produrre le merci tenendo presente il concetto di limite. Ecco, io credo che il futuro anche per l'economia italiana sarà questo, cioè saper capire e partire da concetti e da produzioni mature dentro il quale inserire il concetto di limite, o se volete il concetto di design, di qualità, e quindi attrezzare una produzione adeguata ai tempi. Se posso interpretare quello che diceva prima il Presidente Boccia, innovazione significa non solo innovazione tecnologica, sul quale ad esempio alcuni paesi sono in parte più potenti e più avanti di noi, ma innovazione significa anche innovazione di prodotto continuo dentro un mercato che sarà sempre più competitivo rispetto a questo. Ecco, abbiamo ripristinato il collegamento con il dottor Boccia, già quest'ultima parte forse l'ho ascoltata, avevo chiesto prima se appunto l'industria italiana, che è tradizionalmente basata su settori tra virgolette un po' vecchi, tessile, l'abbigliamento, tradizionali appunto, ha comunque la capacità di innovazione da una parte e di qualità dall'altra per affermarsi proprio basandosi sui valori di questi settori tradizionali. Vincenzo Boccia. Beh, noi riteniamo di sì. Bonomi dice una cosa che condividiamo totalmente, cioè l'idea di innovazione deve passare nel paese come concetto a 360 gradi. Quindi l'innovazione non è solo ricerca, ma è un'operazione a tutto campo. Qual è la grande svolta del manifatturiero italiano? Aggiungere servizi ai prodotti in una logica di capitalismo moderno compatibile. Compatibile significa che la green economy diventa un elemento di complementarietà all'interno delle visioni delle singole imprese, non solo un'area e un settore. E questa è la grande sfida, e cioè cercare di essere innovativi anche in settori maturi. Lo stanno facendo tante aziende che stanno costruendo grandi segmenti nel mondo per i propri prodotti, e partendo proprio dalla nostra storia, e quindi da settori tra virgolette maturi, dobbiamo esprimere la nostra innovazione. Questo elemento che condividiamo nelle parole di Aldo Bonomi in realtà poi emerge nel nostro stand italiano di Shanghai, e permettetemi di fare i complimenti a Quintieri, perché vedete, quello stand dimostra una cosa al mondo: e che dovremmo capitalizzare, sono sicuro che capitalizzeremo grazie anche ai tanti visitatori, e cioè quando entra in gioco bellezza ed equilibrio entra in gioco l'Italia. Noi non dobbiamo perdere questa grande capacità di design, di stile, di approccio innovativo, continuando a fare quello che sapevamo fare, ma aggiungendo adesso servizi e innovazioni. E il concetto di innovazione, anche in termini di politica economica, deve diventare un concetto a 360 gradi. Cioè, tanto per capirci, continueremo a fare del vino o dei pomodori pelati, ma dobbiamo farlo con elementi di innovazione. Sono sempre settori maturi, ma in realtà il mondo ci guarderà e ci comprerà, come dire, se riusciremo ad affrontare questa sfida. Indubbiamente l'innovazione non è solo tecnologia, è anche capacità di presentare prodotti di alta qualità in modi nuovi, in modi accattivanti, capacità di essere presenti rispondendo a una domanda, ma anche creando una domanda di bello, perché si può far conoscere che il bello è qualcosa che c'è, non ci si deve adattare sempre alle circostanze, si può andare alla scoperta di cose nuove. L'Italia come navigatori ha certamente una grande storia. Alessandro da Milano, prego. Sì, molto d'accordo su tutte le considerazioni di carattere economico e di sviluppo, che comunque non richiedevano di andare a Shanghai per essere espresse. Quello che nessuno dice è il dubbio, il grande punto interrogativo sulla validità di un Expo oggi. Tutte le informazioni che vengono date, tutta la presentazione dei singoli paesi, ma soprattutto soprattutto di un paese come l'Italia, non passa più assolutamente attraverso una fiera campionaria o globale come questa. Ecco, io mi permetto, la domanda è molto chiara e molto provocatoria. Beniamino Quintieri, l'esperienza dell'Expo di Shanghai, come risponde a questa critica? Credo che avesse risposto Bonomi all'inizio implicitamente, probabilmente il problema che l'ascoltatore solleva ha una base di verità abbastanza forte e condivisibile. Il problema è che questo Expo di Shanghai è un Expo assolutamente atipico, è un Expo che riporta ai primi Expo dei primi 800, quelli subito dopo il dopoguerra, cioè l'attenzione e l'interesse che la Cina sta prestando a questo evento è straordinaria. Deve considerare il nostro ascoltatore che la capacità dei cinesi di avere informazione e conoscenza di quello che succede nel mondo è abbastanza scarsa ancora, perché anche la possibilità di andare all'estero è limitata a una fascia di popolazione molto ristretta. E questo evento, oltre a dimostrare ancora una volta la capacità organizzativa cinese, che abbiamo già visto più volte anche con le Olimpiadi, è la prima apertura dei cinesi al mondo, quindi è un evento pensato per i cinesi, e i cinesi stanno rispondendo alla grande, e quindi è un'occasione unica, straordinaria, certamente non confrontabile. Quindi si può condividere la critica, l'osservazione generale, ma questo è veramente qualcosa di atipico. Voglio ricordare che l'obiettivo dei cinesi era raggiungere i 70 milioni di visitatori. Dopo la prima metà dell'Expo il target è stato rivisto a rialzo a 75 milioni, quindi la risposta dei cinesi è straordinaria, quindi non c'è solo poi il pubblico che visita, ma c'è anche la ricaduta attraverso i giornali e le televisioni, che ogni giorno parlano dei singoli paesi, dei padiglioni. Quindi credo che sia un evento che dal punto di vista promozionale è un evento straordinario, un'occasione da non perdere. Credo che le ricadute di questo investimento si avranno in futuro. Ecco, questo indubbiamente nella realtà cinese, ma Aldo Bonomi, facendo un passo in avanti, quello che diceva comunque l'ascoltatore è valido, soprattutto se pensiamo in proiezione all'Expo di Milano del 2015, dovrà essere qualcosa di molto diverso dall'esposizione di Shanghai. Beh, io condivido la critica e ricordo all'ascoltatore che bisogna fare un salto storico dal nostro punto di vista, nel senso che l'Expo di Shanghai è una grande fiera campionaria, per rapportarla all'esperienza italiana, e quindi è un luogo in cui l'industrialismo maieuticamente attraversa le masse popolari cinesi, usiamo questa espressione retorica, ed è stata organizzata e celebrata in questo senso. Ed allora subito dico che è ovvio che a una fiera campionaria globale che si apre a un nuovo mercato è giusto quello che dice il commissario Quintieri, che essere presenti rispetto a questa dimensione è importantissima. Detto questo, quando uno visita questa fiera della vanità del mondo globale, ne trae subito alcune deduzioni. La prima deduzione che traggo è che dentro questa rappresentazione maieutica e di alfabetizzazione all'industrialismo come nuovo sole dell'avvenire c'è ad esempio un segnale importante che io ho visto lì, che l'ho scritto anche, che il più radicale dal punto di vista estetico e anche dal punto di vista concettuale è questo padiglione inglese, che è questo enorme istrice della biodiversità che ricorda ai cinesi che celebrano la loro potenza e a noi che siamo lì che se noi non conserviamo quella biodiversità il futuro nostro può essere tragico, e quindi è anche un momento di grande riflessione. Questo mi fa capire una cosa molto semplice: l'Expo di Milano non potrà certamente essere, e spero che non lo sia, la voglia di competere con quello che è stato l'Expo di Shanghai, né in termini di numeri, né in termini di potenza economica, né in termini di potenza geopolitica. Non potremo far questo, e quindi ovviamente il testimone che Milano può prendere è sul piano dei contenuti. Sul piano dei contenuti è alimentazione, problemi come il cibo, problemi come l'ambiente vanno rilanciati con delle idee. Milano può essere un luogo in cui dal punto di vista delle idee ci si confronta con il mondo. Ecco, anche perché, come ricordi nell'articolo che è scritto per il Sole 24 Ore, in 3 anni loro hanno costruito 15 metropolitane, 2 ponti e 2 autostrade per arrivare all'Expo. A Milano c'è qualche piccolo cantiere, ma non si vede nulla di simile. Vorrei lasciare una domanda a Thierry da Verona, prego. Buongiorno. Buongiorno. Per quello che ho capito fino adesso, si è capito che il confronto si farà quindi sull'innovazione. Allora io vi pongo una domanda semplice. Questi giorni è uscita la classifica delle migliori università del mondo e si è vista, i francesi hanno protestato perché le loro università non sono state piazzate molto bene, poi hanno fatto un lobby anche prima della classifica. Gli inglesi hanno detto che allora non hanno investito abbastanza per attrarre i cervelli cinesi, quindi lo faranno in futuro. Dell'Italia non se ne è sentito proprio niente, sarà perché magari siamo distratti dagli appartamenti di Monte Carlo ed altro. Ma io dico, ma gli altri quando investono ad attrarre cervelli in giro per il mondo per innovare? Qua si investe su qua sui badanti, cioè l'immigrazione qua è sui badanti, su badanti e badanti, cioè non ho capito, cioè di che innovazione parliamo quando poi il politico non investe su queste cose? Ecco, l'attenzione della politica all'innovazione, mi sembra questo un tema importante. Vincenzo Boccia, ce ne vorrebbe molta di più? Ma direi di sì, direi che dopo la fase della blindatura dei conti dello Stato deve immediatamente seguire una fase di attenzione allo sviluppo che passi attraverso l'attenzione all'innovazione a tutto campo, sia nelle collaborazioni tra imprese, sia nelle collaborazioni tra imprese e università, per costruire appunto questo percorso. Questo va fatto subito, perché se è vero, come è vero, che la Cina si orienterà sul capitale intensivo, adesso l'Italia deve reagire e costruire un tessuto forte. Quindi abbiamo necessità di una politica economica che salvaguardi i produttori, intesi come comunità, aziende, quindi fabbriche, lavoratori e imprenditori, che sono l'elemento futuro di questo paese che non ha materie prime. È evidente, è uscito proprio qualche giorno fa sulle pagine del Sole 24 Ore, una tassazione che invece è esattamente al contrario e che arriva fino a livelli dell'80% per le imprese con l'intreccio tra IRAP e altre imposte. Ecco, noi dovremmo cercare invece di attrarre imprese, di attrarre investitori, di attrarre cervelli e di giocare la grande partita delle idee. Questa è la grande differenza che l'Italia può fare e definire. Ritornando a una riflessione fatta dal primo ascoltatore, oggi più che mai le fiere sono momenti di informazione e di conoscenza, non di vendita di prodotti. Shanghai sarà l'ultima, come dire, Expo in chiave Novecento industriale, invece Milano dovrebbe essere la prima Expo che viene, diciamo, in una visione diversa, e potrebbe essere la grande vetrina delle imprese italiane che cercano alleanze nel mondo, come Shanghai lo è per le nostre imprese, perché in realtà gli stand sono dei paesi, ma all'interno di questi stand poi abbiamo i prodotti di questi paesi che diventano elementi che caratterizzano questi paesi, e quindi è evidente che la sfida è tra paesi. Far conoscere al mondo i prodotti italiani, in particolare un mondo come quello cinese fatto da 1.300.000.000 di abitanti, è un elemento positivo, e che siamo anche noi convinti, come diceva il commissario Quintieri, che sono elementi che capitalizzeremo nel futuro. Abbiamo bisogno di una politica economica che accompagni questa velocità di reazione del tessuto di imprese italiane, perché solo attraverso questo riusciremo a costruire un paese che non solo mantenga il suo ruolo nel mondo, ma che comprenda una cosa molto chiara che i cinesi hanno compreso da tempo: la politica economica è la dimensione della politica attuale. E potrei citare una bellissima frase di un europeista che era Jean Monnet, che diceva: i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche. A volte noi ci perdiamo in troppa, come dire, politica e poche spiegazioni economiche. È arrivato il momento di tante spiegazioni economiche. Cerchiamo anche con questa trasmissione, di fare anche informazione su temi appunto profondamente economiche. Tra l'altro molti sms che stanno arrivando sono proprio sulle prospettive della Cina, sulle prospettive dell'economia cinese, della società cinese. Ci ha raggiunto anche Alberto Forchielli, buongiorno. Buongiorno, come sta? Molto bene lei, grazie di essere con noi, presidente dell'Osservatorio Asia. Ecco, come dicevo, molti ascoltatori stanno mandando sms al 349-238-6666 e direi che gran parte sono un po' critici in prospettiva. La Cina è un paese che dovrà presto confrontarsi con i temi della libertà, della democrazia, del sindacato, dovrà far crescere i salari, quindi crescerà il costo del lavoro. È un paese che invecchia, avrà maggiori spese sul fronte sociale, quindi la competizione che c'è stata, basata in passato su un bassissimo costo del lavoro e quindi su un prezzo delle merci molto basso, in futuro cambierà. Alberto Forchielli, quali sono le prospettive, ricordo presidente dell'Osservatorio Asia, le prospettive in questa dimensione appunto della Cina? Sì, le osservazioni che fanno gli sms sono tutte vere. La crescita cinese rallenterà nel 2020 in coincidenza con l'invecchiamento della popolazione dovuta a 30 più anni di politiche di figlio unico, per cui dal 2020 in poi si prevede un tasso di crescita intorno al 6-7%. Per quel che riguarda le libertà sindacali, questo governo ha fortemente appoggiato gli scioperi, purché venissero fatti con ordine, e io che vivo a Shanghai tutti i giorni leggevo il China Daily che sosteneva questi scioperi. È nell'interesse cinese Che aumentino i salari sulle imprese costiere, perché un aumento di salari vuol dire maggiore potere d'acquisto dei lavoratori, quindi una spinta alla domanda interna, vuol dire una spinta verso una maggiore produttività delle imprese cinesi, una spinta verso un maggiore valore aggiunto, una spinta verso l'integrazione dei settori industriali che adesso sono molto frammentati. Quindi possiamo pensare che ci sarà una politica favorevole verso una maggiore libertà sindacale e un innalzamento dei salari, questo senz'altro. Altre domande? Non saprei, comunque fino al 2020 il tasso di crescita rimarrà questo, la grande sfida è quella di aumentare i consumi interni che negli ultimi anni sono calati rispetto al PIL, ma questo può essere fatto solamente se si crea un grande sistema di welfare. Perché la gente non spende, perché risparmia in funzione di una pensione che spesso non c'è e in funzione delle spese sanitarie che non sono coperte. Creare un sistema di welfare per 1.400.000.000 di persone decentralizzato su 30 province è una cosa che noi in Italia ci abbiamo impiegato 30 anni, quindi va bene che i cinesi vanno veloci, però è una sfida ventennale per loro. Ecco, in questa prospettiva comunque la classe media cinese, ricordiamo i cinesi sono 1.300.000 persone, si può dire che il 10% abbia un livello di vita occidentale? La Cina è il primo mercato del lusso nel mondo diventato, ossia non è tutta la gente che è andata a fare, tutti gli espositori del padiglione italiano secondo me hanno fior fiore di negozi in Cina, ossia non è che siamo ben presenti, c'è una classe media che ha un ottimo potere d'acquisto, perché teniamo presente che 10.000 dollari di reddito promedio in termini di potere d'acquisto valgono 50.000, lei quando pensa ai numeri cinesi deve sempre moltiplicare per 5, in realtà la Cina ha superato il Giappone in termini di parità di potere d'acquisto 10 anni fa, quindi c'è una classe media, c'è una classe media che consuma, c'è un'economia sommersa formidabile, la ricchezza è molto più elevata di quella che si rileva dalle statistiche ufficiali, e questo sommerso viene fuori ogni anno perché i ricavi fiscali aumentano del 32% all'anno in Cina, quindi c'è una forte emersione del sommerso, però parliamo di un'Italia degli anni 50 insomma. Ecco, c'è un altro SMS che chiede, ma certamente fino adesso il Partito Comunista Cinese è riuscito a tenere in mano, a sembrare di controllare la situazione, non è possibile che la situazione dal punto di vista sociale possa implodere in qualche modo e fare qualcosa di simile a quanto è avvenuto con l'Unione Sovietica? Beh, è stata proprio l'Unione Sovietica che ha insegnato ai cinesi una grande lezione. Prima si fa partire l'economia, poi dopo si fanno partire le libertà politiche e non viceversa. Devo anche dire che i cinesi in questo momento, sia in campagna che in città, hanno comunque goduto di un fortissimo aumento di ricchezza. 400 milioni di cinesi sono usciti dalla povertà negli ultimi anni, per cui non queste tensioni sociali sono più immaginarie che reali. Ci sono circa 70.000 morti, diciamo disordini provinciali in Cina, ma sono tutti dettati da esigenze economiche. Si riferiscono per la maggior parte al prezzo degli espropri. Quando in Cina fanno queste opere infrastrutturali, fanno queste costruzioni immobiliari, devono espropriare chi c'è, chi ha la casa o chi ha un terreno agricolo. Ecco, il tema non è sul compenso, neanche sul fatto dell'esproprio o meno, ma quanto mi dai per la terra che mi porti via. Ecco, non esiste in questo momento, sono molto, diciamo, money oriented e poco ideologically oriented, non c'è una spinta ideologica molto forte. Io credo che la sfida più grande che il partito debba affrontare sia quella della corruzione periferica. Sì, la possibilità appunto anche di controllare un paese che è vastissimo dal punto di vista geografico, è vastissimo dal punto di vista della popolazione, che ha grandi differenze al proprio interno. Ecco, si può ricordare, abbiamo parlato già nei programmi precedenti, la classifica di Newsweek che è uscita, esce in questi giorni, in cui c'è appunto la posizione secondo dei parametri di qualità, di benessere, di salute, di istruzione, il dinamismo economico, il clima politico, al primo posto la Finlandia, secondo la Svizzera, il Giappone è al nono posto, l'Italia è al 23°, ma per trovare la Cina bisogna scendere fino al posto 59, quindi la Cina è un paese per certi aspetti in via di sviluppo, per altri aspetti che ha saputo intraprendere la strada della crescita, ma che ha grandissime ancora differenze al proprio interno. Ecco, ci avviamo alla conclusione, vorrei un bilancio un po' di queste nostre discussioni sulla Cina. Forchielli dice che il cammino comunque è un cammino che certamente non sarà lineare, ma è ormai tracciato, la crescita è ormai una realtà e anche quindi la partecipazione della popolazione. Queste prospettive cinesi restano comunque delle prospettive da cogliere più come opportunità che come rischio. Beniamino Quintieri. Sì, Sicuramente, credo che il governo cinese ha dimostrato in questi anni un grande pragmatismo e una grande capacità di pilotare l'economia in maniera tale da tenere sotto controllo anche eventuali difficoltà che ha per esempio con la periferia. Questa crisi ha cambiato l'approccio alla Cina. Prima la si considerava dal punto di vista della competizione verso mercati terzi, oggi dopo la crisi lo si considera come un mercato e probabilmente diventerà il mercato più interessante. Credo che ci sono settori che si espanderanno molto, quello sull'ambiente, sulla sanità, e questi offriranno una grande opportunità. C'è da dire anche che sul lusso, si diceva prima, la Cina sta diventando il mercato più importante. In realtà ancora manca, c'è molto da fare sulla fascia media, perché i cinesi sono stati fino ad oggi molto affezionati ai loro prodotti e invece se si va nei grandi supermercati si nota quasi tutti i prodotti cinesi. Con la crescere di una fascia media, di una borghesia che aumenterà la capacità di spesa, si apriranno nuovi spiragli per i nostri prodotti, che non devono essere necessariamente quelli di lusso, ma possiamo accedere a una fascia ben più ampia di consumatori cinesi. Questa è secondo me la grande opportunità che dovremo cogliere nei prossimi anni. Questa è musica per le orecchie di Vincenzo Boccia, mi sembra. Sì, direi di sì, lo abbiamo toccato con mano in questa missione che abbiamo fatto. È evidente che man mano che aumentano i salari in Cina, la Cina diventa sempre più un mercato di consumatori ed è evidente che più, come dire, i cinesi assumono una dimensione rilevante in quella parte di cinesi che sono milionari, si contano ad oggi già 800.000 milionari in Cina, più cercano prodotti cosiddetti di alta gamba e qui diciamo il gioco del Made in Italy diventa un gioco a tutto campo. Questo nel breve. Nel medio, man mano che aumentano i salari, è chiaro che i cinesi non possono più attrarre attrazioni di investimenti labor intensive e devono andare sul capital intensive. In questo caso, diciamo, i concorrenti poi della Cina diventano i tedeschi, noi italiani altri, e su questo dobbiamo essere bravissimi e non bravi a posizionarci prima che ciò accade, perché evidentemente sulla parte di manifatturiero industriale la grande sfida comincia adesso e la vedremo tra qualche anno. Ecco, da questa prospettiva possiamo ripetere, come già fatto secondo altre prospettive del 1967 da Marco Bellocchio, La Cina è vicina, un film che è diventato famoso più come slogan che forse non, che come contenuto. Allora, per concludere, Aldo Bonomi, possiamo essere, non dico tranquilli, ma sicuramente impegnati a guardare alla Cina come una possibilità di soluzione ai problemi anche della crisi, più che un altro problema. Ma io tornerei al tema dell'Expo, perché i cinesi giustamente hanno individuato in questo Better City, Better Life uno dei temi che riguarda la loro società. Detto fuori dai denti, il rapporto tra campagna e città, il rapporto tra contado e metropoli, il rapporto tra la dimensione agricola e la dimensione industriale. Devo dire che da questo punto di vista l'Italia ha qualcosa da dire. Noi siamo uno degli unici paesi in cui il rapporto tra città e campagna si è risolto, tra città e campagna e anche tra agricoltura e industrialismo si è risolto in maniera meno conflittuale che altrove. Siamo andati all'Expo dicendo che le nostre Better Lives sono le 100 città, non le megalopoli, e questo mi pare una cosa da tenere presente. Quindi non solo pensare alla Cina come un grande bacino di ceti medi consumatori, ma vedere un attimo che l'equilibrio tra queste due dimensioni che riguarderà, guardiamo la globalizzazione che viene avanti, la globalizzazione riguarderà questi grandi problemi, come coinvolgere in una dimensione di ottenimento del benessere, delle garanzie sociali, della salute, della sanità, milioni di persone, è una sfida che abbiamo davanti, dentro il quale certamente c'è mercato, ma anche servizi e una nuova cultura del capitalismo. Io credo che si possa finire questa trasmissione dal mio punto di vista dicendo che l'Expo di Milano dovrebbe essere una grande riflessione sul capitalismo che verrà, ecco, partendo dal capitalismo che c'è. Grazie, dal capitalismo che c'è un capitalismo, e non dimentichiamolo, forse parlare di capitalismo è sbagliato perché è un libero mercato il capitalismo, in cui il protagonista non è il capitale ma è la persona e le sue scelte. Grazie a Aldo Bonomi, sociologo, Vincenzo Boccia, presidente della piccola industria di Confindustria, Beniamino Quintieri, commissario generale del governo per l'Expo di Shanghai, Alberto Fronchieri.